Il punto di Stefano Folli. Forse non basta dire, come ha fatto Renzi, che il problema non sono le regole ma i ladri. Se fosse così, e considerando la spaventosa realtà che sta emergendo, prima Milano e adesso Venezia, l'intera forza dello Stato italiano dovrebbe essere già da tempo impiegata per scardinare il malaffare diffuso a macchia d'olio. E il magistrato anticorruzione, anziché arrangiarsi con pochi collaboratori e poteri incerti, sarebbe a capo di un esercito in marcia. Invece tutto è così difficile perché oltre ai ladri ci sono le regole. Regole bizantine, spesso assurde, fatte per essere aggirate. Regole affogate in una giungla burocratica inefficiente, terreno di pascolo per corrotti e corruttori. Il problema sono i ladri, certo, è persino ovvio, ma il problema sono anche le regole, indegne di un paese che vuole risollevarsi. Renzi dovrà mettere la questione morale al centro del suo programma di riforme, ma speriamo che non entri anche lui nella mentalità dell'emergenza, per cui ci si limita a far scattare le manette senza decidere di cambiare nel profondo un sistema privo di qualsiasi trasparenza.